sono qua, anch'io sono un po' di mal di schiena, mi sono comunque ripusato, sì, vabbè, stavo facendo roba. Ok. Allora Luca, ti ha ordinato il 3009, così hai, ho capito bene? Hai capito benissimo. Ok, vabbè, no, è un superstare eccezionale, come radio a me piace moltissimo la modulazione del superstar, veramente. Veramente, per me è uno, come modulazione, uno dei più belli nel senso più chiari, eccetera. E poi anche forte, io ho il 360 FM superstar, ma adesso sono da un bel po' di tempo senza attaccarlo. 120 canali, e dunque, va bene, va benissimo, non bene, va benissimo. Sì, no, questo me l'hai gatto. Ho capito, sì. Vabbè, e adesso appena che ti arriva lo plug, ce lo fai sentire, mettici l'MB più 4, che c'è una bomba con l'MB più 4, anch'io l'avevo messo l'MB più 4 al 360 FM, il mio si chiama 360 FM Super Sal. Sì, vabbè, l'MB più 4 li attacco allora. Speriamo non ci sia da invertire i fili, altrimenti, tanto un attimo, quelli di sopra vanno sotto, quelli di sotto vanno sopra. Si invertono così, ma penso che vada bene perché, vabbè, se è omologato voglio invertirti, sotto e sopra, sì. Sì, vabbè, ma quello non è un problema, il fatto, ma tu devi adottare il sistema che ti ho fatto lo spezzone, basta, perché devi stravolgere il collegamento dello spinotto del microfono, ma che te lo vado a fare? Ti fai uno spezzoncino, così puoi usare il microfono e non puoi usare l'altro, perché se tu cambi i collegamenti, poi dopo viene l'altro non va bene, sei sempre da capo. Infatti, quello rimane così, virginello com'è. Infatti non è stato mai aperto, capito? Rimane così, le aggancio le MB più 4 e via. E questa ti piace la modulazione giù? Sì che mi piace, da quando hai messo il microfono, la tariffa vai bene, di radio vai bene, guarda. Stamattina ho notato anche un incremento di segnale lì. Diciamo quella radio lì ha anche diverse potenze. C'è un potenziometro, capito? Non è mia, no. Questa qui è quella che ho aggiuntato a un amico, capito? Ho capito, sì, ho capito anche che te l'ha dato, sì. Sì, no, perché ho visto che dal tuo solito segnale si è adeguato quasi 9-10, si è adeguato stamattina anche, nonostante l'antenna nella posizione in cui si trova. Sì, a Catania quant'è che sono arrivato, non me lo ricordo. E dunque sta dicendo anche bene, stamattina sta dicendo anche molto bene, non è che non si può dire, no. E ho visto che ti hanno risposto anche dal continente, a Puglia, ti sentivano anche bene, ti sentivano. Sì, ma ero con l'MB più 4, questo è il microfono normale. D'accordo, quello che vuoi, però ripeto, ti sentivano anche stamattina con l'MB più 4, anche con quello ti avrebbero sentito. Perché avevi aumentato il segnale, oltre al fatto che c'era preparazione buona, Sì, ho fatto anche una QSL, c'era gente sul Lago Maggiore e mi mandano la QSL via email, una QSL speciale per il Covid-19, c'erano delle stazioni speciali, capito? Sì, è meglio così, Natali. Sì, che vede bene, peccato grazie perché non hai altro modo di metterla con l'antenna, peccato veramente, perché se no saresti andato alla grande, da lì da dove sei tu, saresti andato veramente alla grande, ma comunque puoi ritenerti soddisfatto, ti hanno risposto dal continente e va bene ugualmente, dai. Sì, infatti, se non mi rompo i cazzo ne varo qui da campagna, Lubaru. Me lo piazzo qua, ci piazzo una Game Master, sopra 12 metri di palo non andrà bene. Beh sì, perché no, certo che va bene, gli alluvioni che va bene, perché è leggera, anche se oscilla molto, quando c'è vento, molto. Oscilla è tanto giusto che deve oscillare, non è che diventa ad angolo retto, no, assolutamente no. ma voglio dire, si muove, però il fatto che si muove non significa niente, non le crea nessun problema quando c'è vento. Perciò va bene, vanno bene, dai, vanno bene veramente, altro che. Avanti Antonio di Pompugno. Aspetta un attimo di Bianco, che mi sto collegando il microfono, l'F10 dell'FM500S. Sui minuti faccio Bianco, così lo collego. Boh, che chiacchieroni, da sera presto, boh. Gianni, comunque giù, non mi ricordo quando sono arrivato in Sicilia, adesso 9.30 o 9.40 sono arrivato, così. Ma non me lo ricordo nemmeno io, Natale, non me lo ricordo, io a voi dava confusione stamane, tutti ci hanno chiamato, ma si vede che abbiamo coperto tutta l'Italia, abbiamo coperto voi, perché c'erano chiamate da tutte le parti, da sotto a sopra, proprio in una maniera proprio molto ma molto importante. Ciao Gianni. Ciao Giulio, ciao, mi hai sentito? Buonasera, dai, buonasera a tutti, ciao Natalina, a tutti gli amici che sono in Roma. Ciao già. Tu non c'eri stamattina già, eri assente, peggio per te, ci siamo divertiti, abbiamo collegato tutta l'Italia. Vabbè, evidentemente avevi altre cose da fare, più importanti. A fare la spesa sono andato giù, sono andato a farmi la spesa per diciamo le cose grosse, dai, ho comprato. Sono tornato a casa, verso l'una ne ho fatta anch'io di Diego. Sì. Sul Lago Maggiore, mi mandano la QSL via email. Cosa gli hai dato? L'email là? No, non gli ho dato niente, sono andato sul loro sito, mi ha detto dove andare e ho compilato il form e me la mandano la QSL per confermare il QSL, ho capito. Erano delle stazioni speciali per il Covid-19. Hanno fatto tipo un contest? Sì. C'hanno la frequenza monitor pure e quindi sono andato nella frequenza monitor e mi hanno sentito di brutto sul Lago Maggiore. Appaga buono, va bene. Io ho parlato un po', diciamo parlavano in inglese, non so da dove, ma erano inglesi. E poi con Palermo e qualche cosa l'ho collegato anch'io. E anche noi, Catania 9.30 sono arrivato, Radio Super 5. E lì è sempre buona per noi la propagazione. Quando esce la propagazione, quelle donne lì le facciamo normalmente, no? Buia, ma ti sentivano proprio alla prima chiamata, no? Non c'era problema, figurati. Oggi era una preparazione meravigliosa, tutti con un segnale altissimo, anche Riccardino c'era, anche Riccardino, gli ho fatto fare diversi diecchi anche a lui, e dunque contento ragazzo. Noi bisogna che lo mettiamo in linea anche lui in modo che impari bene, ma ormai già se la sa cavare, la verità se la sa cavare, no? Non c'è niente da dire. Caspita, ha una linguetta quel ragazzino, no già, e quando non lo fai entrare mi può usare la bieccia, dice, non vi siete ricordati di me. Sì, no, è abbastanza in gamba, la verità. Lo stiamo instradando bene, dai. Per così dire. Grazie, picchia la tosse. Scusate la tosse. Vediamo un po' a Pompugno se l'ha attaccato a questo microfono. Io ho messo dai questo microfono all'FM500, cosa era? Quello l'hanno rubato dalla macchina a me, uno uguale, un FM500S. Io in passato ce l'ho avuto l'FM500S 34 canali e poi gli avevo fatto un ponticello che era esattamente nel commutatore dei canali, spostavo un filo da un posto all'altro in un altro punto e avevo guadagnato roba di 15 o 16 canali, tutti di sotto, canali bassi o tempo, Gianni. Io invece ce l'ho preso forzando la manopola, facevi, non avevo detto l'autista a me che veniva da me a scaricare, mentre quello lì tu basta che prendi uno straccetto e piano piano forzi la manopola oltre 34 ed si spacca una specie di blocco che c'ha e ti fa andare avanti con i canali, ti faccia 35, 36, 37, mi pare che aveva 39 canali, una cosa del genere, 39, 38 o 39 canali. E anch'io avevo fatto così. No, io no, invece io quello non l'ho fatto. Però avendo fatto quel ponte, poi da 34 canali, ero arrivato a canale 52, mi sembra, se ricordo bene, una cosa del genere. Insomma, è il canale 40, però, a parte il fatto che mi usciva scritto anche nel display, no? Il canale 40, anziché rompere quella specie di plastica che c'è nel commutatore dei canali che forzando salta perché è di plastica, io mettevo il canale 1, canale 2, fra l'1 e il 2, proprio lo mettevo piano piano fra il canale 1 e il 2 e prendevo tranquillamente il canale 40 anche. Tutti gli altri invece riuscivo con la manopola dopo aver fatto la modifica fino a 39 e il canale 40 lo tenevo così, fra l'1 e il 2. Però è rimasto sempre originale, senza mai spaccare quella specie di puntino di plastica che c'è nel commutatore. Vabbè, era venuto un autista con un autotreno a portarci lo zucchero da Continente e ne stavamo parlando, le tacciai per fare 500 come il mio nel camion e lui mi ha detto sì, gliel'ha fatta la modifica, e quale modifica? Lui mi ha detto così e così, preso lo straccetto piano piano senza fare molta forza, basta che tu fai appena appena di forza, si dita che si spacca una cosa e poi ti risegna i canali 34, 35, 36 e ti segna tutti i canali. Sì, infatti era così, lo so, no, ma io l'ho tenuto originale, non l'ho mai fatto spaccare. Poi alla fine quel baracchino lì l'avevo dato a mio fratello quando aveva il negozio delle bombole e ce l'aveva lui in negozio, mentre invece nel motocarro delle bombole ne aveva un altro da 6 canali e comunicava con la moglie quando c'era l'ordine della bomba, la moglie lo chiamava su un determinato canale, lo chiamava e lui completava il giro delle consegne. Gli avevo dato io tutti e due, baracchini gli avevo dato più l'antenna. L'antenna era una antenna di 2,75 metri in resina, tutta in resina, che si collegava a metà, cioè c'era una specie di bussolotto a vite, si avvitava l'antenna e si poteva utilizzare a stazione fissa e andava molto ma molto bene quell'antenna lì, tutta in vetro rigido, uno stilo era e basta, niente di più, capito Gianni? Sì, me lo ricordo quel tipo di antenna, sì. E io allora ci avevo un'antenna, si chiamava Sigma DX, che era bianca, era del colore della macchina, era bianca in vetro resina e quella lì è pompava veramente forte quell'antenna. Ho avuto la colibri, quella giallo ocra, tipo arancione, là. Quella rimaneva più corta, però quella di X era abbastanza alta, l'avevo messa nella grondina del 127, mi ricordo ancora, bianco, e risaltava bene perché era bianca anche l'antenna. Sì, ce l'ho avuta anch'io la Colibri, sì, ce l'ho avuta anch'io. Poi l'avevo, allora in quel periodo avevo anche la Vespetta, io avevo la Vespetta 50, che mi serviva quando dovevo fare delle commissioni o andare a prendere misure, eccetera, no? Avevo messo l'antenna sul parafango di davanti della moto, la moto 50, ti puoi immaginare, e l'avevo lì davanti a bottega, mettevo la moto sul marciapiede, no? Proprio davanti al gradino di bottega, e parlavo allora, in quel periodo, oggi impossibile anche con l'antenna grande, parlavo addirittura con Villanova Monteleone dalla Vespetta, ti puoi immaginare Gianni, era micidiale, era. Ma in quel periodo allora l'aria era pulita, non c'erano tutte le frequenze che ci sono oggi, ce n'erano poco di segnali, invece oggi è stato l'aria di segnali, radio private, televisione, balle varie, per cui avanti Natali. Eia, infatti ce l'ho avuta anch'io la Sigma DX, quella bianca, ce l'avevo sulla Citroen Visa, me lo ricordo ancora. Quella andava via Natali, quella era bella, no? Cavolo, poche pompava. Io me lo ricordo, io c'avevo su 127, c'avevo l'attacco a grondina e allora c'erano le grondine nelle macchine. Adesso non le fanno più, ma prima c'erano le grondine. E attaccavi via la grondina, era molto comoda perché lo stavi a bucare e fare e pompava lo stesso, andava bene lo stesso. Te credo. Oh yeah. Andava bene mela, sono col microfono normale già. E già va bene Natali, già va bene, una bella radio. Mi ricordo Gianni, quando avevo quell'antenna che ti stavo dicendo che si abitava eccetera eccetera, era in un'unica confezione, quando l'avevo comprata, e c'era la frusta nera, c'era e questa antenna qua, c'era, tutto in un'unica confezione. E delle volte la cambiavo da falegnameria, da di fronte a falegnameria, allora parlavo con la frusta nera, con Mario Bravo Charlie, e mi dava Santiago 9+40, da bottega Mario Bravo Charlie non era molto lontano, era abbastanza vicino, no? Lo sai dove abitava, e sostituivo l'antenna, o meglio lo stilo, mettevo quello stilo che era grigio, in due pezzi lungo 2,75 m, e mi dava 9+60 sullo smitter del coso, della linea Sommerkamp che aveva lui, te ricordo, con il trasmettitore e il ricevitore separati. Se non ricordo male abitava lì all'inizio della Budi. No, abitava praticamente nella strada che si entra da via Alessandro Manzoni in fondo, alla fine di via Alessandro Manzoni, la strada dritta che viene per entrare e per venire a casa tua, abitava in una di quelle case lì vicino, proprio all'ingresso praticamente. Ma io mi ricordo che abitava lì alla Budi, vabbè, mi ricordo male allora. Vabbè, comunque io ho conosciuto io. Charlie, praticamente adesso è morto anche lui. Lo so, anche io li ho conosciuti tutti e due, sia a Mario che a Elio, certo. Sì, quando prima era morto Mario, poi Elio era diventato un metronotte, e dopo anni anche lui purtroppo se n'è andato. Lavorava lì come custode in uno dei ricconi di Sassari e faceva il vigilante lì nel terreno e nell'abitazione di uno dei ricconi di Sassari, senza fare nome. Sì. Sai quante notti ci ho passato io con lui? Io. Già lo so dove lavoravo. Io c'entravo dentro, mi apriva il cancello, mi faceva entrare, lui faceva avanti se questo, esattamente. Sapeva gli orari, ci avevano tutti l'orario di rientro. Questo rientra alle 9, l'altro rientra alle 7, l'altro rientra... Adesso fra poco dovrebbe rientrare la figlia. Come rientrava, lui poi si usava in macchina e cominciava a fumare, a bere, lui si è rovinato così per bene fumando, c'aveva la casa della birra sempre dentro la macchina. Lo so, una volta che era deceduto il fratello, allora vabbè, ha dovuto cambiare vita in pratica, perché prima vabbè accudiva fratello e non poteva fare altro, lui era obbligato a stare col fratello, ma e viveva da quello che prendeva il fratello, è ovvio, perché lui non poteva lavorare, ma dopo che è deceduto Mario, allora ha dovuto cercarsi un lavoro, l'ha trovato e è andato avanti finché non è deceduto anche lui. Vabbè, comunque, la vita è così. Vediamo se Pompugno ha messo questo microfono. Pompugno? Sì, ti sentiamo, avanti a tu. No, ti sentivo più chiaro prima, quando ti ho chiamato io, ti sentivo più chiaro come modulazione. Mi sentivo comunque sempre lo stesso, dai, sentivo sì per la verità, adesso l'ho guardato bene. Ma è bella la modulazione. Sì, ma prima ce l'aveva più bella, tu non l'hai sentito, Gianni, quando ho entrato poco fa, diciamo 20 minuti fa più o meno. No, non l'ho sentito perché io ho acceso, ero addormentato e mi sono svegliato con l'apparecchio acceso, mi sento modulato e mi sono svegliato. E niente, vabbè, comunque non lo so, fai la comparazione, vediamo un pochettino qual è la migliore, secondo me. Questo è un film. E mi arrivi due rimastati. Non l'ho visto. Lasciamo così. E vabbè. È che ci avevo la spesa con la roba surgelata stamattina, ma ci avevo l'antenna, potevo cercare. Nemmeno io lo sento, la verità, l'importante io non la sento. Vabbè, arriva 9:10. No, ma lo sai cos'è? Deve essere lì in zona, capito? Hai ragione, deve essere in zona. Te l'ho detto già chi è? Cava cava. Ciao Anto, te l'ho detto chi è? Non è dove hai detto tu Gianni, è dove te l'ho detto io, dai, fregatene. Sì, infatti, quando tu vai in campagna magari è capace che lo senti. Cava cava, per carità. Va bene, Claudio, tutto fatto hai? Sì, già, grazie a Dio ci ho messo tutto a posto, tutto in ordine, e va bene. Te l'ho detto, dov'è già? Te l'ho detto, fine del chilometro, per andare a Sorso, la strada vecchia che porta a San Camillo, lì è la portante. Esatto. Ciao Claudio, no, qui la verità non arriva a questa portante, io non riesco ad inquadrarla perché non mi arriva. Però sentendo le varie versioni degli amici qua, i segnali praticamente, non le versioni, i segnali, un'idea già me la sono fatta, ma poi chiaramente bisogna essere sicuri, cosa vuoi dire? Io non ho la sfera di cristallo, la verità. Vabbè, dai. Comunque, se Claudio dice così, può darsi che lui ha avuto modo di verificare. Se continua a dire così, vuol dire che è sicuro anche di quello che sta dicendo. Non è un bambino Claudio, è quello che lui pensa e probabilmente ha ragione. Io ho provato con la direttiva non sbaglia, non c'è da sbagliare. È puntata lì e lì il segnale aumenta del 50%, quindi... Comunque lasciamolo fare, dai, non le date adito, a me non mi dà fastidio assolutamente, non vi fa niente a nessuno. L'unica cosa è che rompe le balle a Gianni nella bassa valle con i segnali bassi, capito? Perché non è stupido, è una persona grande, quindi mette la portante quando ci sono i segnali bassi, senta un po' pure la portante a meno. C'è Natalino, via. Ciao Natali, scusa, io avevo la radio accesa, ma ho sollevato il volume adesso. Ciao Giulio, ciao Antonio, dai. Avanti Anto. Cosa stai usando? Va bene Anto, va bene, dai. Io ho tolto il bip che mi dà fastidio. Adesso la controllo Anto, dai. Riprendi Natali. Ciao, buonasera. Anto, come mi ricevi? Sono il microfono normale comunque. È basso anche. Stai cominciando ad aprirsi di nuovo la propagazione, a quanto sembra. Io incomincio già a sentire qualcuno sotto sotto di voi che già incomincia ad arrivare qua. Vai Gianni. Ehi, sì, è vero, l'ho sentito anche io. Ero puro, l'ho sentito. Attenzione collega, ci ascolti Italia, Nord Sardegna che chiama, Gambio Italia. Tua City, qua Italia, Nord Sardegna. Roma, Italia, Roma, Venezia. Roma, Venezia, tua City. Sardegna, avanti collega, dove ti trovi? come stamattina. Infatti non è buona come stamattina, ma si sta aprendo. Vediamo un po' se si apre ancora, e chi lo sa. Sono curioso di sentire questo microfono che sta mettendo sul FM 500S, Pompugno, ma ancora la turbare non l'ha fatto. Pompugno, ci sei? Non trovo il collegamento. Danni, non trovo l'allaccio. E vicio la mano. Vabbè, Luia. Avanti a tu. Anche Pompugno, oltre al 500S anche Pompugno è vecchio. No, io sono più grande, però io sono giovane, lui è vecchio. Infatti, guarda, questo è l'MB-Q4, Antu. E adesso l'ho abbassato, dai, forse era troppo alto. Guarda un po'. E quello arancione. Oh. Quell'altro non va. Guarda, te ne rendi conto adesso? Sono un uomo che ha fatto più grande la stessa messa, fianco. Cappa. Ma io la lascio stare così questa, Giulio. Sto usando il Cobra con il Turner, va bene, no? A voi adesso va bene, che capita, è un video, va bene. Va bene, vai tu, ma figurati. Te l'abbia già detto qua. Quando non andrò bene, sta tranquillo, te lo dico, no, non c'è problema. No, non mi faccio faccia rossa io. No, non mi vergogno. Se per caso non stai andando bene, già te lo dico subito. Ehi, Anto, lo so, questa è una signora radio, perché c'è, questa radio è così, c'ha il modello a 200 watt, capito? Quindi sono in bassa potenza, da 10 watt c'è un picco di modulazione a 50, fate il conto. Ehi, una versione DX da 200 watt, il Cobra 200 watt. Ehi, quelli che utilizzano il Kenwood sono, guarda, questa è la potenza bassa, Anto, giusto per farti capire che cacchio è. RF Power, cioè HI Power, guarda, questa è la potenza bassa e questa è la potenza alta, vedi? E praticamente i picchi sono diminuiti ed è salito il segnale. Se ti ho letto, va bene, Ita non ha bisogno di nulla, Ita è completa, rimettiamo com'era, che è più che sufficiente, dai, avanti, doppio room. Io vi saluto che porto giù il cane e poi vi faccio sentire dopo, dai, continuate tranquillamente, già entro dopo. Vi saluto per il momento, dai, ciao a tutti e buon continuo con il show. Ciao già, buon tutto. Ciao già, ci sentiamo dopo, dai, tranquillo, vai a portare il cane, il mio si è addormentato un pochino, poi più tardi lo porto, dai, avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, a dopo. Ma qua, il microfono, quello nero, quello è? No, questo è il Turner Expander 500, quello grande. Ho capito, no, pensavo che fosse il Turner, come si chiama, quello B, là. +3B. Ma guarda, tu memorizza questa modulazione, così mi dite quale microfono devo usare, perché ne ho talmente tanti che non so manco quello che devo usare. Tu memorizza questa modulazione, questo è il Turner Expander 500, adesso ti collego il Turner +3B, ok, e mi dici secondo te quale devo usare, proprio senza avere nessun problema, mi dici qua, usa il Turner +3B perché va bene lo stesso, e mi va bene perché così è più piccolo, lì è troppo umano da mettere in mezzo, non c'è posto di niente, capito? Aspettalo collego, dai, riprendi intanto Natalia, per te è meglio questo, ok, vediamo. Allora, Giulio, questo invece è il Turner +3B, qual è che ti piace di più, questa o l'altra? Ma diciamo che non c'è questa netta differenza, questo ha un po' di toni più alti, però è bellissima sia l'una che l'altra, ma è questione di gusti. A me mi piacerebbero tutti e due, fai una cosa, tu fai un passaggio con uno e un passaggio con l'altra, così tutte le volte che ti rilanciamo, così me ne godo tutti e due le modulazioni, perché per me vanno benissimo tutti e due, non c'è una grossissima differenza, però il Turner +3 ha dei toni un po' più alti, forse anche appena più alti. Adesso bisogna vedere anche il volume che gli hai dato, naturalmente. Sono tutte e due allo stesso livello, Giulio. Sono tutte e due a metà, capito? Sono tutte e due a metà. Ho capito, sì. Sono tutte e due a metà e devo dire che non so più quale scegliere. Se tu mi dicessi, per dire, ti vorrei fare uno di questi due microfoni, devo essere sincero, non so più scegliere, guarda. Ne ho talmente tanti che non so la verità. Questo è il più 3B della Turner, l'altro è il Turner Expander 500, solo che ho un barragione e mi prende un bel posto, non lo so. Anto, dimmi cosa devo fare. E certo, siamo qua per questo, non è che stiamo facendo prove di microfoni. Io ripeto, ne ho tanti adesso microfoni e non so quale mettere, li sto abbinando a radio per radio, però io mi ascolto, cazzo, sembra sempre uguale la mia voce, cosa volete vi dica? Non so cosa dirvi, per me non cambia niente, o una o l'altra, per me non cambia niente. Va bene, dai, rimettiamo l'Expander 500 allora, dai, va bene. Lo so, però io voglio mettere un microfono per ogni radio e non toccarli più, senza stare lì come pensate, cosa pensate, dai. Io ripeto, mi ascolto in cuffia e per me sono tutti uguali. Escono tutti bene, capito? E a chi, Manuel, non è problema. Vabbè, avanti Gianni, a te quale piace più, questa del 3000 o quella dell'Expander 500? Gianni è andato a portare il cane. Sì, che ha il migliore. Non ho capito, qual è il migliore? Il GPI, Il 3000? GPI, Ehi Vanni, cazzo, boh, cioè siamo vedendo i cosi, sì, i due abili sempre a buffonare, mamma mia, non ne boscio più, cazzo, boh. Io preferisco questa comunque, dai, adesso ci ho pensato, preferisco questa, la modulazione. È più o meno simile, anche secondo te, quindi siccome questo è più piccolo lasciamo questo, perché l'Expander 500 è troppo grande e non c'ho posto di niente, dai, ok. Aggiudicato, allora lasciamo questo, non si ne va a vedere più, ok. No, ma se vuoi prendere spazio vengo io a prendere nomi qua, non ti preoccupare. Perché io ho un punto, buonasera a tutti. Aiuto, cara, chiuso spazio mi, guarda, c'ho questo ripiano, telefono, la salda turbato, la salda saldante, la spirata che ci sta giusta, mi allungo il capo e un bijou. E poi il microfono lo metto sotto, cioè sotto nel senso sopra la scrivania. Tu mi hai tante, stai zitto, cazzo. Scusate un attimo, forse c'è Eugenio, fate un po' di bianco. Eugenio, sei tu? Ciao Eugenio, se non ci penso io a te, vedi che non ti possono vedere questi amici, solo io ti posso vedere. Avanti, mi prendi oggi, salutaci tutti, dai, fai un bocco unico. Sono sparito, sparito Eugenio, capito qua, se tu hai dei problemi di spazio, non per me è problema a me, vengo io, o mi dai uno o mi dai l'altro, però se preferisco il secondo, il ritardo preferisco, mi dai il solo se ne parla più, va bene? Oggi, forse non ti sentono gli altri, forse non ci sentono perché c'è QRM di preparazione, è entrato anche Riccardino, avanti Riccardino, non riprende, vabbè, comunque, andavano a tessi, avanti qua. Bobo, andiamo, carta, Claudio sta incartando il microfono per me. Avete capito come sta incartando il microfono? Proprio il pacchetto, anche il fiocchetto metti. Aspetta, sì, di poche parole. Poi fai prima anche, sei più vicino di me. Guarda qua, anche senza spinotto, anche senza capo, basta via ci infilate agganciati al coso, al diciamo dentro, all'interno, i fili agganciati, o i colori, poi lo arrangio io. Mamma mia, mi fermo questo microfono, Antonè, fatti sentire, aumenta. Manino! Qua, sono il QRM, sotto controllo. Ciao Vanni, Giulio da questa parte, da questa perla. Adesso ti mando avanti Pompugno, che ha appena installato un microfono sull'FM500S. Vai Pompu. Sì, l'F10, boh, ma questo funziona bene, cosa ne so. E tu comunque abbiamo ascoltato, Vannino, da parte mia, ascolto tutti comunque qua. L'unica cosa bella che ha col baracchino sono un bifano che vai appresso. Come microfono è quasi muto, non è muto del tutto, ma poco mi manca. Va bene, dai, Claudio! Basso di applicazione. È basso di radio, avanti che mi chiamava, Franco mi sembra. Il microfono è buono, per me va bene, è chiaro, abbastanza. E il segnale che va bene, vi avete cosa stai usando, il segnale che è basso, sì, intorno ai 7, sì, là, più che altro. Ah, ce l'hai fatta a mettere a posto, hai visto, te l'ho detto, con un po' di pazienza vedrai che trovi il problema, e così è fatto, fra. Va bene, dai. Riprende, fai girare, qui c'è Natalino, Antonio, la Sassari, poi c'è Claudio sicuramente in questo momento al telefono perché non riprende, poi c'è Pomponio, Vannino già l'hai sentito che è lì vicino a te, problema, non mi so, poi chi c'è? Luca anche, vai che per chi vuoi o fa. Ok, d'accordo, va bene, dai. Avanti Antonio. Io mi manca lì. Ah, e adesso sono tutto gonfio. L'F10, mi ricordavo che sia un cantarano, adesso va bene comunque, questo è il Salerno. Io vai alzato, e vabbè, sarebbe alzato, lì siamo. Sì che ce l'ho. Veramente si attaccavo con i vitti, con quella specie di quella tipo di placenta, come la vuoi chiamare, e li metti tre. Sì che ce le ho quelle tre cose. Bene, ti rispondo male. Una birra ci beviamo, il vino te lo prendi, compreso anche la carrozzeria se vuoi. E appunto, quindi, se vuoi te lo staccare, ma ti servono anche i vitti con quella ceccio, con quella roba lì. E vabbè, che parecchio è? Linco? Ah, no, perché il compito ce l'ho invece a pagare, non mi ricordo se le FM500S o cosa sia. Vabbè, ti stacco la colonnina, con le vite complete, con quelle aggeggi e così via, ti ritiro. Aspetta che lo svita adesso, va. Poi se hai 5 minuti di tempo, dopo mi passi e te le prendi. E vabbè, se lo passi domani mattina, non mi cambia nulla a me. Va bene, là. Adesso te le stacco, così ce li hai. Lasciami 2 minuti di tempo, così ti metto una busta, domani a casa e la porti via. Vuol dire che non rendi più. Allora, ti saranno dei grissini, invece di darti a pezzi di mortadella. Ascolta, la cassa è quadrata dietro, dove è cacciata con i vitti, sì. Cioè, è quadrata, sì. No, io ce l'ho quadrata, proprio quadrata ci infili le vitti e il dadino, basta, è a posto. Sei quadrata, non c'è problema, ci sono i vitti anche da lì, allora, ti lascio i vitti da lì, non tanto il quadrato, non fai altro che togli uno e mettici l'altro. Papulio, amici mi ascolti, Papulio, ascolta Papulio. Non ho capito una scelta, avete fatto in due. Giulio, Papulio, mi sentite? Sì, io ti sento, LG, ma c'era Antonio che stava parlando. Dai, avanti Eugenio. Luca, a te il manico, dai, io faccio qua lì che si prende un po', dai, dopo rientro. Avanti Eugenio. Ciao Eugenio, saluto anche a te. Allora, tanto cosa hai detto? Non ho capito un affanculo che ti ha parlato in mezzo Eugenio. Ah, questo, lasciatemi andare a fondare al fondo, una cosa Riccardino Zurigo. Mi dica! Riccardino, manda un messaggio sullo stato a Gianni Lottorrugno, con il mio numero di cellulare di richiamarmi, sarà cortesia. Cosa? Non ho capito, Gianni Lottorrugno? Devo mandare un messaggio su WhatsApp con il mio numero di cellulare ed è esclusivo di chiamarmi, telefonino una cosa. Ok, adesso glielo dico. Un attimo vado in quel X che gli mando questa cosa. Ciao, comunque. Ciao, ciao, ti piace, ciao, la voce. Ci sentiamo, ciao. Ciao, Giulio, ciao. Sono io a Gianni e glielo dico che lo vuoi parlare. Oh, cosa Giulio? Che cosa? Mi hai chiamato? Ma quando? Poco fa ti ho chiamato, che ti ho sentito quando sei entrato, ma non hai risposto. Abbiamo parlato in 35.000 che mi stava chiamando Eugenio. Io lo so, ma io ti avevo chiamato prima in precedenza, capito? Vabbè, non fa niente, dai, non è un problema, figurati. No, però mi avrei salutato, mica non so salutare. Comunque ti saluto e a tutti gli altri, Antonello e a tutti gli altri. Adesso Eugenio ti mando quella roba, ti mando gli mando a Gianni il numero. Scusate che stavo mettendo a posto un po' di roba qua, sono qua. Sì, io rimango un attimo in quei ricchi, se dai, ho da fare in questo momento, a dopo. Azzardo! Riccardino. Sono qui, stavo mandando la cosa a Doppio Room, che cosa c'è Natale? Gianni mi ha detto di mandargli il numero di Eugenio, che non ce l'ha lui. Infatti sto facendo quello, gli sto mandando il numero. Ok, grazie. Sì, non è quella lì, dov'è? Un po' fammi ricosino. Boh, ma però. A Pattango. Tu aspetta, quando è che me lo porti? Arrivato, ti stai comprando? Ma vado, ma che stai comprando, guarda? Ma non mi credo. Vabbè, non c'è un problema, c'è una mano, se ti serve te la dà Luca, problemi non ce n'è. Sì, che senso mi arrabbiato. Ascolta a me, quando è che me lo porti un vostro telefono? Tu non hai mai arrivato nulla. Guarda che domani mattina viene la mia 25 a prendermi intorno alle 10 e mezza. Sono qua, dai. Un Natalino. Natalino. No, sto chiamando a... Non mi ricordo il nome, ma le confondo, Natalino e Angelino. E Natalino, sì, c'era Natalino adesso. Ehi, dimmi Ricca. Ti volevo chiedere, ma a Roberta alla fine non gliel'hai lasciata quella cosa, che ti ha detto di no? Gli avevo portato il microfono a Roberto. Il mio è a sì, c'è già l'attacco a sì, magari ce ne entri e va, o nel Mubicom, capito? Lui mi ha detto che tu stai usando un apparecchio con l'affare a 4, capito? Mi ha detto così, e allora è logico che me l'ha tornato. Io ti volevo prestare quelle M93 della ZG e così potevi usarlo. No, ma ho capito male, perché gli avevo mandata la foto del Mobicon che stavo chiedendo a qualcuno se aveva l'attacco, non si è ricordato che gli avevo mandato quella foto e così si ricordava solo che stavo usando i baracchini con gli attacchi a 4 pin. Cosa vuoi che ti dica? Io, se lo vuoi, quel microfono glielo riporto, e così dopo faccio a pigliartelo, o vieni qui, non lo so, come fa piacere a te. Grazie Natali, ma senza impegno, se non devi prendere l'impegno di portarmelo, che tanto non ho fretta. Quando puoi, tipo che stai passando a quelle parti, glielo puoi passare, no, non è una cosa urgente. Sì, va bene, non c'è problema. Cosa? No, non sta parlando nessuno. E che ne so? Ah, signore benedetto, cosa ho fatto di male? Benedetto, azzardo! Fagli squillare il telefono. Prova a parlare, tu. Prova a parlare. Ho attaccato una cassa a Sony. Questa cassa è di un sub, dove dopo sul round, come ti cavolo si chiama. Allora, anch'io, si sente, guarda, magnificamente bene. l'audio, è bello, mi strapperò. Quindi adesso ce lo compriamo il Turner, così impari. E me lo compro anch'io, così metto la portante a lui proprio. O io ti fornisco le batterie e li ricambio. Non parli adesso, bella bene. Io metto la portante rosa verde, la portante d'oro. Allora, no. Avevo conti per l'impetto di 6 giorni di maiale. Lo allunghi e lo metti nella canna da pesca. No, non lo seriamente, ma un stile bumba non ce l'ho, ma c'è uno stile di un, di quelle antenne per telefono, ti fai misuralo, se ti va bene li metti uno di quelli, cosa vuoi ti dica? In alluminio, domani quando viene ritirati quella tua parlante te lo poi se va bene va bene, se no ti lo lampi. Già ho capito, vabbè, prova, io ti do quello lì e al limite, o ci vuoi infilare all'interno, non so, vedi tu di fargli qualche modifica strana. Facciamo a contare le macchine, se avete messo uno studio durante le macchine, ma non è ho. E però io, ne avevo la 15 di quella antenna di macchina, già sono ricordo la taglia, ma l'avevo regalata Mario Chimine, capito? Poi l'avevo regalata agli altri e sono rimasto senza io, figurati. Se mi avete chiamato stavo facendo cosa, dimmi a tu. Infatti ti raggiù di tu che ne passa in devizia che l'armadio la roba che va dentro. Per carità, cazzo. Non hai visto che sono uno sopra l'altro, ne ho 15 di microfoni dentro l'armadio, ma non 15 giocattoli, ne ho 15 microfoni buoni. Poi c'è tutta la roba, cazzo. Sotto non te la posso fare la foto perché sennò ti metti a piangere, la roba che c'è, radio. Vabbè dai, lasciamo perdere comunque. È roba comprata con i soldi, non me l'hanno regalata, attenzione. Vuol dire che ti teme. Adesso prendi fuoco. La mazza te ne vai, tuo cazzo bindacciato, la gente è un botto, cazzo, sei fasciata da messo. Cazzo, non è possibile. Cazzo, doia. Ma vedo che sei facciato. Ah, messo, la sei attaccata, cazzo, mi sei sceso tutto, aspetta, fammi rimettere a posto, la mazza te ne vai, Anto. Ah, messo, la sei attaccata. E andate a tenere via a Luca, a me, mi compareggio l'aereo. Cosa ne so io? A me mi deve arrivare un'altra anche domani mattina di scatola, da San Teodoro, figurati. Eia, da San Teodoro, lo sai dove è San Teodoro, sì. Non ti voglio umiliare, già lo sai dove è San Teodoro. Ti mando una foto di cosa va tu. Da poco è roba. Adesso gli ho detto quella che voglio e mi manda quella che gli ho detto io, però gli tu mi manda la mondetta che sennò te la rimando indietro. Lo sto vendendo io una MC 80, lo sto vendendo nuovo, bellissimo, esce molto meglio del... Per voi che avete pochi acuti esce molto meglio la MC 80, l'ho detto anche a Tino, 30 euro, e allora, cazzo, costava 80 euro un MB più 5 e dopo 30 euro la MC 80, ora rimane rentata dall'armadio. Sì, quella è l'85, quella no, l'85 è nuovo, assolutamente, ma non esce meno di 70 euro, ma proprio a un amico, se no non esce, ma stai scherzando, costa più dell'MC 60-80, prendilo subito a 30 euro, io 30 euro non lo do, non mi serve il pane, rimane tra l'armadio, se lo vendo a metà prezzo, ma è il prezzo suo, 70 euro, non di meno. Se non c'è la foto te la metto come l'85 e non c'ha il parametrico, sono gemelli, però non c'ha l'equalizzatore parametrico, ma i microfoni sono uguali, sì, sono uguali, precisi, identici, solo che quello là c'ha il parametrico e l'80 non c'ha il parametrico, basta, non cambia assolutamente niente. Dietro il microfono all'interno c'è una rotellina in plastica piccolina, un trimerino piccolino in plastica che da lì si abbassa e si alza l'amplificazione se lo usi con qualche radio che non ha, per esempio, come il 440. Se no, per il 440 va bene come è regolato, anzi anche troppo forte. E 85 costa 20-30 euro in più, non è che ci sia molta differenza. Nuovo, non hai visto che l'ha messo in alto quello della cosa, come si chiama? E vabbè, quello nero in alto, quello è un lineare VHF da 200 watt lo stesso. E vabbè, a me a volte serviva, adesso non mi serve più, non ne faccio più. Prima stavo magari in banda laterale e avevo la radio che dava pochi watt, adesso ho due GQH da 100 watt, quindi no, non c'è bisogno di niente. Non lo so, no. Non lo so che tipo è. Il mio è della... Non me lo ricordo, vabbè. Non CTE, cazzo, ti sto dicendo il mio, roba professionale, roba seria. Aspetta, guardo che marca è. C'è il preamplificatore d'antenna, è una cosa seria, no? Cazzo, CTE. CTE, robo i vendi 30 euro, 40 euro, ma quello che ho io costa un sacco di soldi. No, il mio è della Microset o... Anto, roba seria, roba professionale, no, no, è della CTE, no, il mio è della Microset. Se vai a comprare un lineare così da 200 watt per le VHF non lo paghi meno di 200 euro, e gli servono sempre, va bene. Avanti a chi tocca in questo canale, avanti. Sono io. Vai, vai, parla, parla. Parlo. Comunque, ma vabbè, più o meno, Claudio, cambia molto da questo l'MC60 all'MC85 che l'ho visto, uno che lo stava dando. La modulazione è sempre quella, perlomeno a me non cambia niente. Io con tutti i microfoni della Kenwood 2 sono sempre uguale. Poi bisogna vedere la timbrica. L'MC80 va molto bene come microfono, l'MC85 c'ha l'equalizzatore parametrico, dipende, se ti serve equalizzare la modulazione va meglio dell'80, se non ti serve equalizzare la modulazione sono uguali come microfono. Ho capito, sì, no, perché lo stava dando e ti volevo chiedere com'era, visto che stavate parlando dei microfoni Kenwood. Sono simili, Riccardi, sono simili, ti ripeto, uno c'ha l'equalizzatore parametrico, l'altro invece no. Però come microfoni sono molto simili. Ok, avanti break. Devi cercare di aumentare questo cacchio di segnale, perché in questi giorni che c'è propagazione ho anche problemi io ad ascoltarti. Claudio! Asperica, non lo so, segnale molto basso. Tu a me mi devi arrivare 5, 9 più 20, mi stai arrivando Santiago 9, quindi qualcosa è successo lì, per forza ho il clap. Per forza è successa qualcosa, capito? Ecco perché hanno difficoltà ad ascoltarti un po' tutti, non lo so. Ok, dimmi Ricca. Ma l'ho sentita solo io una portante. Ho capito. L'ho sentita solo io una portante. No, c'era poco fa una portantina, ma a me non mi disturba, è un pupazzetto quello lì, capito Ricca? È un pupazzetto che c'è nella zona bassa, lì del monte, che poi non è nella zona bassa del monte, ma è in un'altra zona un pochino più alta, che io ho già riscontrato, e continua a fare l'imbecille, lasciaglielo fare Ricca. No, il problema è perché ha coperto a Claudio da muro, già è basso oggi e l'ha pure coperto, stava mettendo musica. Fa così, capito, fa così, si difende solo così, mettendo musica, perché è un imbecille, è un personaggio imbecille. Ma deve essere qui vicino, perché è già un po' coperto. Lo so che è vicino a te, sì, lo so, ce l'hai di fronte proprio, figurati tu, che se continua dico anche chi è, se non la smette. Sarebbe meglio, visto che sta sempre disturbando le persone che già, perché c'è, visto che c'è questo problema del virus, si sta rianimando un po' il canale 10 e adesso si stanno a mettere portante. Lì vicino a te Ricca, adesso mi senti meglio? Sì, però comunque di fondo un po' sento questo che mette la musica. Quello lì è Anto, quello che ti stavamo dicendo, dai. Perché è coperto verso di te, è coperto, è verso la zona di coso, di Riccardino. Io, spaccare dai. Claudio, ma chi è che stava parlando con te adesso, perché l'ha proprio coperto? Sì, Claudio non lo senti, Claudio D'Amuro se non ti arriva a te sicuramente. No, prima mi arrivava comunque, finché questo non si mette col vicino a metterlo a portante. Sì, ti sento, comunque adesso già ti sento un po', prima questo sta continuando a metterne e sta rompendo le balle. Ehi, dai, va bene, lasciatelo fare, se no fa peggio, dai. Lasciatelo fare, se no fa peggio. Vediamo un po', Riccardino, se mi senti meglio adesso. Sì, adesso già ti sento bene. Cosa, Anto? Mi senti bene, Anto? Sì, non ho problemi io, eh. Ma poverino, cioè, a volte perde la pazienza anche un bambino, ma come si fa? Cioè, ma perché devi rompere le scatole ai segnali bassi, mettere la portante? Ma lascia stare, vivi e lascia vivere. Se vuoi modulare, modula, ma cosa stai a rompere le scatole? Lo so, ma pensavo fosse finita l'era, capito, Anto? E invece mi sembra che è sempre la stessa cosa, boh, non lo so, boh. Poi si mette a disturbare un ragazzino che ha voglia di parlare, adesso non si muove di turba a me, no? Come sente, segnali bassi si mette a rompere le scatole, Anto. È già da diversi giorni che fa così, capito? Io ho individuato una direttiva un po' da che zona è, ed è appunto alla fine del chilometro dove abitava Marcello per salire, no? Per andare a San Camillo, in poche parole, mi. E vabbè, comunque io non faccio nomi, però la zona è quella, quindi anche chi vuole intendere intende, cioè non me ne fotte nulla a me. Veda lui cosa vuole fare, se vuole continuare, continui, e se no che si impicchi, a me ne fotte sé, a me già non mi disturbano. Claudio, mi senti a me, no? Io ti sento, non c'è ne problema. Cappa, va bene, dai, mettiti in sesto, vediamo un po', Giulio si è rientrato? No, Gianni Doppio Rumi ci segui? No, Natalino ci segui? No, vedi, se vado devo girare tutti, Antonio, è un casino, perché arrivano bassi, capito? E quindi non sentono di un casino. Cosa vuoi che ti dica? Non so cosa dirti. Buonasera. Cosa le donchi, è già troncato, la giura, cosa donchi, cosa devi troncare, lascialo fare, lascia, se lo fa peggio, vabbè, io non so cosa dirti, dai, io rimango in QRX, se c'è un po' più di cosa che si può parlare, va bene, se no non so cosa dirti, ok? Ok Claudio, va bene, anch'io resto in QRX perché me la stai facendo addosso e torno subito. Va bene Ricca, siamo qua, dai, non ti preoccupare. Alle solite siamo. Ah, un pezzo di merda, cazzo, non viene bene a dirlo. Ogni volta sono i segnali bassi, adesso Riccardo stava parlando con Claudio D'Amuro e si porta pure in musica, capito? A noi non ci fa niente, ma è una rottura di balle sta cosa, non si può andare avanti. Adesso io domani mattina faccio un salto da un amico, lo avviso, le faccio fare un controllo lì in quella zona, vediamo se riesce a bugarne bene. Te l'ho detto, è rientrata troppa gente con questo Covid. Ciao Claudio, dai, sentiamo forse più tardi, oggi mi sento proprio male. In più entri a distrarti e ti girano le balle peggio di prima, e quindi niente da fare, dai, saluti a tutti. Sì, ma quando io l'ho detto, Marco, qualcuno mi ha risposto, non c'è nessuno, non è meglio che entri la gente. Sì, poi entriamo in detto, è meglio che rimaniamo a rasura. Infatti quando eravamo i soliti pochi fedelissimi, 3 mesi fa, quant'era? Importanti non ce n'erano. Comunque questa sembrava in propagazione, perché aveva un lento QSB, lento, saliva, scendeva, a meno che non sia ancora mobile, boh, non lo so. Guarda. Ciao a tutti, sono proprio a terra oggi. Vabbè, facciamo passare un po' la propagazione, allora poi ci sentiamo, io sono qua comunque, ok? La buonasera a tutti, dai, rimango in quel che si mette a fare qualche altra cosa. Meglio di prima ti arrivava, c'hai più vatte, c'hai, capito? Adesso arrivi meglio. Ma io te l'ho detto, usa la 48, perché quella la 48 c'ha 8 vatte di portante, 10 modulati. Magari quello che stavi usando prima ne ha 4, capito? Quindi ti aiuti un pochino. Vabbè, se non funziona lì la metto da parte, pazienza, vuol dire si userà pezzi di cambio, non so cosa dirti. Vabbè. Avanti Riccardino, lo senti a Claudio adesso? Riccardino? Si è stufato, poverino, non si può, ogni volta siamo alle spalle. Alle solite, portante, portante, beh. Ah, andavo in bagno. Marcolini, te l'ho mandata la foto di questa radio che sto usando adesso? Ciao, Antonio. Dimmi il nome, vediamo se ce l'ho. Questo non c'è nessuno, ce l'ho io, Massimiliano.